lo so perché tanto di stelle per l'aria tranquilla arde e cade perché sei gran pianto nel concavo cielo spavilla. Ritornava una rondine al tetto, l'uccisero, cadde tra i spini e l'aveva nel becco un insetto. La cena dei suoi rondinini ora è là come in croce che tende. Quel verme a quel cielo lontano e il suo nido è nell'ombra che attende, che pendola sempre più piano. Anche un uomo tornava al suo nido, l'uccisero e disse perdono.